Primo appuntamento della settimana con Arden Devi, la voce di Marco Gravelli con voi ad augurarvi il benvenuto, la buona serata. Come sempre ringrazio il nostro autore Simone, pronto sul pezzo anche per questa sera con tutta la scaletta, nonché il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Suoneranno questa sera con i Kingdom Come a Milano e allora li proponiamo, li presentiamo. Sono i Dokken, che provengono dall'America, nati nel 1978 grazie al chitarrista Lynch, al batterista Brown, che dopo aver abbandonato un gruppo che si chiamavano Exciter, hanno creato insieme alla voce di Don Dokken questa band. Ed è dopo un demo che arrivano alla pubblicazione dell'album d'esordio nel 1981, era Breaking the Chains, che gli diede da subito un buon successo in Europa. Il secondo lavoro si intitola Tooth and Nail e la notorietà arriva anche negli States, confermato con il terzo successivo Under Lock and Key, album di platino, più di 1 milione di copie vendute nel 1985. Andarono di supporto negli States ai Judas Priest ed in Inghilterra anche. Il successivo album, il quarto, Back for the Attack, fu l'album più venduto, tanto da raggiungere la 13ª posizione negli States. Dopo la pubblicazione del quarto album, i vari musicisti si dedicano a progetti solisti e i Dokken furono quindi messi da parte. Una reunion arriva nel 93 con il quinto album, nel 95 esce Dysfunctional. Seguono alcuni cambi di line-up, da segnalare che ci sono ingressi del chitarrista Rob Beach dei Winger, sostituito a sua volta da John Norum degli Europe, con il quale incidono Long Way Home, ed in seguito anche lui lascerà la band per ritornare con la formazione degli Europe. Ultima uscita è avvenuta nel marzo tramite l'etichetta italiana Frontiers in Europa, la pubblicazione di un live album dal titolo From Conception Live 1981. La band attualmente sta lavorando ad un nuovo lavoro in studio previsto per il prossimo album. Il titolo provvisorio è The Lightning Strikes Again. Il pezzo che oggi andiamo ad ascoltare e a rappresentarli si intitola Lightning Strikes Again e arriva dall'album Under Lock and Key, The Dokken. Dokken con le note di Lightning Strikes Again, grande brano questo da Under Lock and Key. Altra grande formazione che arriverà prossimamente dal vivo è quella dei Queensryche, gruppo americano precisamente di Seattle, nati nel 1981 con il moniker di The Mob. Importante fu l'ingresso del cantante Geoff Tate, all'epoca proveniente dai Myth. Nell'82 c'è il cambio di nome nella loro attuale Queensryche. Dopo la pubblicazione di ben due EP arrivano all'esordio nell'84 con l'album The Warning, che gli permise di andare in tour in Giappone supportando Ronnie James Dio e i Kiss. Gli album importanti per la band sono Operation Mindcrime dell'88 e Empire del 1990, che arrivò alla quota di oltre 3 milioni di copie vendute negli States. Una sorta di svolta musicale arriva con l'album Promised Land, che a livello di vendite gli ha dato ragione, tanto da raggiungere il numero 3 negli States. Seguono altri lavori che si distaccano musicalmente da quanto proposto all'inizio della loro carriera, per poi ritornare sui loro passi con l'ultimo album in studio dal titolo Operation Mindcrime 2, uscito lo scorso anno, che prosegue il concept del primo Operation Mindcrime. In tema di uscite, quest'estate hanno pubblicato un live dal titolo Mindcrime at the Moor, disponibile sia in CD che in DVD, nel quale hanno suonato entrambi i due Operation Mindcrime, con tanto di special guest di Ronnie James Dio nei panni del Dr. X. Ed eccoli allora, oggi proposti a voi dal loro album intitolato Empire, con il brano che dava il titolo allo stesso. Million more on space exploration and 43 times brano che dà il titolo all'album in questione, Empire, per la formazione dei Greenstrike che abbiamo ritrovato questa sera. Saranno a metà del mese, oltre la metà del mese di novembre, dal vivo in Italia, unica data, al nuovo live club di Trezzo d'Ada. La prossima band invece, anch'essa arriverà tra non molto, saranno lunedì 15 ottobre all'Alcatraz di Milano, martedì 16 all'Alfeus di Roma insieme ai Primal Fear, cioè Udo, già cantante degli Accept, con il suo 11° album dal titolo Master Cutor, presentato con lui nel mese di maggio. L'abbiamo intervistato, il grande cantante appunto Udo, simpaticissimo, ricordiamo, ex cantante degli Accept, che dall'87 ha intrapreso la strada da solista pubblicando l'album Animal House, e questo nuovo Master Cutor che esce 20 anni dopo dal primo, l'album anticipato dal singolo The Wrong Side of Midnight. Abbiamo proprio scelto la traccia in questione, cioè il singolo che ha quest'intro particolare. È stato anche realizzato il video di questo motivo dall'album Master Cutor, Udo con The Wrong Side of Midnight. Yeah. mese di ottobre carico e pieno di concerti, tra cui quello di Primal Fear con Udo, 15 ottobre Alcatraz di Milano, 16 ottobre Alpheus di Roma. Questa era Master Cutor dal suo ultimo lavoro. Ora un progetto particolare che si chiamava Fenomena, è una project band praticamente inglese che ha creato questo spazio, più che spazio appunto questo project, con il chitarrista Mel Galley, già con i Trapeze e gli Whitesnake, insieme al fratello Tom, quando agli inizi degli anni 80 vogliono creare un concept, incidere perlomeno un concept inerente ad eventi sovrannaturali. Pertanto nell'85 uscì il primo omonimo lavoro che vedeva Glenn Hughes alla voce, sentite che formazione, Cozy Powell alla batteria, il bassista Neil Murray degli Whitesnake e il tastierista Don Airey dei Deep Purple, scusate. Il secondo lavoro è uscito poi due anni dopo, vedeva una line-up diversa ma sempre con grandi artisti, così come per il terzo Inner Vision del 1991. A ben 15 anni dall'ultimo lavoro, quest'anno è uscito il quarto capitolo dal titolo Psycho Fantasy. Tra i musicisti presenti come special guest c'era ancora Glenn Hughes, Tony Martin, J.J. Marsh, Keith Murrell. Ma dal primo Fenomena, proprio il primissimo in vinile, oggi andiamo ad ascoltare il brano che apriva l'album, cioè Kiss of Fire, che è stato anche all'epoca pubblicato in Italia. Kiss of Fire quindi per Fenomena 1. bacio di fuoco, Kiss of Fire per la voce di Glenn Hughes e il progetto chiamato appunto Fenomena. Andiamo invece ad una delle più importanti band sudamericane, ce ne sono tante ma loro sono sicuramente i numeri uno, cioè i Sepultura, famosissima thrash metal band che arriva esattamente da Belo Horizonte grazie ai due fratelli Max e Igor Cavalera, che dopo uno split CD con gli Overdose nel 1985 debuttano nel 96 con il primo album Morbid Vision, che musicalmente si presentava come death metal. Nell'86 c'è da segnalare l'ingresso in formazione del chitarrista Andreas Kisser con la, diciamo, la pubblicazione del secondo album, che si intitola Schizofrenia, anche se la notorietà comincia ad arrivare con l'album Rise del 91, per i due grandi successi a seguire: Chaos ID nel 93, che arrivò al numero 11 in Inghilterra e 32 in America, e poi Roots, che arrivò al numero 4 nel 95 in Inghilterra. Nel 96 però purtroppo Max Cavalera lascia la band per creare i Soulfly e il suo ruolo di cantante è stato preso da Derek Green nel 97. L'ultimo album in studio si intitola Dante 21, uscito lo scorso anno, al quale è seguita la fuoriuscita del batterista Igor Cavalera. Notizia recente che i due fratelli Cavalera, dopo ben 12 anni, hanno creato un nuovo progetto a nome Cavalera Conspiracy, e con questo moniker pubblicheranno un album nuovo nel febbraio 2008 su etichetta Roadrunner Records. Dal loro secondo album, oggi vado sulle cose un po' meno note, From the Past Comes the Storms è il pezzo che apriva l'album e che andiamo ad ascoltare. Album uscito nel 1987 dal titolo Schizofrenia, sono i Sepultura. Less sanity. Infancy. still remains on my legacy. Message by a whole ship. No regrets from the best gun is strong. apertura di seconda parte di Arden Devi in compagnia di Marco Gravelli. Come sempre vado a salutare e ringraziare il nostro Simone. Abbiamo ascoltato dall'album Sunsets i Sunsets con I'm in Love. Storia di questa band che arriva dalla Svezia, però il leader è spagnolo, si chiama José Sánchez, che risiede però da tanti anni in Svezia. Cantante che ha cominciato nell'84 quando aveva 15 anni in una band svedese chiamata Breakers, con i quali ha inciso un paio di demo. Poi nell'88 entra negli Empire Saint, anche in questo caso incide un singolo in vinile e un album in studio. Arriva poi lo scioglimento della band, lui entra nei Lies e infine nei Conviction, che si sono sciolti nel 2001. All'inizio di quest'anno ha ottenuto un contratto per un album solista, così si è circondato di musicisti svedesi che hanno registrato questo ottimo album di hard rock pubblicato qui in Italia la scorsa settimana tramite l'etichetta Frontiers Record. Sesto album invece per la band dei Poverty's No Crime, che si intitola Say My Soul. Loro sono tedeschi, propongono del buon prog metal, composto la band da 5 elementi nati nel 1991. Questo album si compone di 9 tracce più un intro, molto ben prodotto dalla stessa band. Abbiamo già ascoltato qualche traccia, oggi vi propongo End In Sight, Poverty's No Crime. Children of Bodom hanno completato praticamente la scrittura del prossimo album, annunciato come special guest Peter Tagtrin degli Hypocrisy e dei Pain. Ufficiale la reunion della storica death metal band inglese dei Carcass con Jeff Walzer alla voce e al basso, Mike Emmott degli Arch Enemy e Bill Steer alle due chitarre, mentre le parti di batteria saranno affidate al batterista degli Arch Enemy. Questa reunion avverrà in occasione del Wacken Open Air in Germania il prossimo anno. Si intitolerà Graveyard of Angels, il prossimo lavoro in studio per i Gory Blister, death metal band italiana. Come periodo di pubblicazione si parla dell'inizio del prossimo album. Brainstorm si intitolerà Downburst, il loro prossimo nuovo album, con il cantante Andy B. Frank, 11 tracce in uscita il 25 di gennaio tramite Metal Blade. I Danger Danger pubblicheranno su Frontiers Record il nuovo album, che come uscita si parla l'inizio del prossimo anno. Timo Tolkki, quasi pronta la ambiziosa rock opera per il chitarrista finlandese degli Stratovarius, sarà un concept sull'amore e la lotta tra il bene e il male, diviso in 18 tracce. Il titolo sarà Sahana Warrior of Light Part 1 Journey to Crystal Island. Questo è tutto il titolo ed è prevista anche una seconda parte. Non solo sarà disponibile in CD audio dalla durata di un'ora circa, ma anche sarà girato un film che verrà allegato come bonus DVD. Si tratta della pubblicazione su etichetta Frontiers e il periodo è sempre all'inizio del 2008. Parliamo di Gary Hughes. Uscirà il 21 di novembre su Frontiers il nuovo album solista per il cantante polistrumentista inglese noto per la sua band, cioè i Ten. L'album si intitolerà Veritas e si comporrà di 12 tracce. Uscirà su AFM Records il 19 novembre il nuovo album per la band tedesca degli Axis. Il titolo sarà Doom of Destiny, sarà il primo col nuovo chitarrista Marco Raidet. Inoltre gli Axis suoneranno di supporto agli Halloween e Gamma Ray il 27 di novembre al Tenda Strisce di Roma, il 28 novembre all'Alcatraz di Milano. In tema Halloween, il loro nuovo album si intitolerà Gambling with the Devil, uscita prevista per il 29 di ottobre. Come anticipazione è disponibile il singolo, che si intitola As Long As I Fall, che andiamo a proporvi. Sono gli Halloween. Shut my heart and tell my mind to run and flee. Once I was flying, flying, flying high. I touched the sky. As long as I fall, I don't hit the ground. As long as I fall. Nuovo singolo, anticipazione del prossimo album per gli Halloween, era As Long As I Fall, farà parte di Gambling With The Devil. Parliamo ora invece dei tedeschi Sodom, uscito la scorsa settimana su etichetta AFM Records questo lavoro per la speed thrash metal band. Il titolo è The Final Sign of Evil. Hanno in pratica riregistrato le tracce pubblicate nel loro primo EP, che si intitolava In The Sign Of Evil, e hanno aggiunto ben 7 nuovi brani, scritti durante però quel periodo, quindi nel 1984, ma mai pubblicati ufficialmente. Il titolo è appunto The Final Sign Of Evil, e come special guest ci sono il batterista Witch Hunter e il chitarrista Violator, che avevano suonato nel EP originale. Per quanto riguarda la band, ricordo che i Sodom sono un trio, il cui unico membro originale è il cantante bassista Angel Reaper. Nati agli inizi degli anni 80, il loro album d'esordio risale all'85, era Obsessed of Cruelty. La band conosce un grande successo tra l'87 e il 90 con 3 ottimi album, soprattutto con Agent Orange. Oggi li proponiamo con Blasphemer, che faceva parte appunto del loro primo EP, non è uno dei 7 motivi inediti. Questi sono i Sodom. Questi sono i Sodom da questo prodotto nuovo. Andiamo in Italia con una formazione che abbiamo anche ospitato, Derdian, uscito su etichetta Magna Carta, il secondo album per questa Symphonic Power Metal Band di Milano. Composta da ben 6 elementi, creata dal chitarrista Enrico e dall'ex batterista Marco, che ha suonato solo nel primo demo nel 2001. Gruppo nato nel 98, quando era dediti ad un certo thrash metal, che poi è stato spostato a livello di sound su sonorità più power metal. Il loro esordio risale al 2005 con l'album New Era Parte 1. Questo lavoro gli è valso lo scorso anno un prestigioso contratto con l'etichetta Magna Carta, che che ne ha pubblicato quest'anno il secondo lavoro dal titolo New Era Parte 2, War of the Gods, che si compone di 10 tracce registrate presso i Virtualize Studios di Verano al Lambro e mixato, masterizzato presso i Moon House di Milano. Andiamo ad ascoltare proprio il brano che dà il titolo all'album, cioè New Era. Formazione dei Guardian con le note di New Era. Siamo addirittura d'arrivo con il prossimo motivo, che è il gruppo chiamato Divine Heresy, creato dall'ex componente dei Fear Factory, chitarrista Dino Casares, che suona il basso su quest'album. Alla voce c'è Tommy Vext, alla batteria Tim Young, ex Vita Remains. Ora è stato ufficializzato l'ingresso di un bassista ex Nile, cioè Joey Payne. La produzione è stata affidata a Logan Mather, ex Machine Head ed ex Soulfly. Sulle note del brano Bleed the Fifth, io vi lascio con i Divine Heresy. Vi ringrazio per aver seguito l'appuntamento di Hard and Heavy anche questa sera. Ci ritroveremo domani 20:21 su Rock FM, grazie al nostro sponsor Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 qua a Milano e il nostro autore Simone. A domani, ciao!